Cosa ha fatto? Se l'è scopata? No, niente di così grave. E cosa allora? Le ha fatto un massaggio ai piedi. Un massaggio ai piedi? Mm-hmm. Tutto qui? Mm-hmm. E allora Marcello che ha fatto? Ha mandato a casa sua un paio di scagnozzi, l'hanno portato sulla veranda e l'hanno buttato di peso fuori dal balcone. Il negro si è fatto un volo di 4 piani. Di sotto c'era un giardinetto ben curato, col tetto di vetro, come quello delle serre. Il negro ci è passato attraverso. E da allora non è capace di esprimersi molto chiaramente. Cazzo, un vero peccato. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Lei, improvvisamente e sorprendentemente, mi fece una proposta. Scommettiamo, mi disse, che ho il coraggio di mettermi anche in topless. Storie di seni al vento e di guardoni nei motel in una puntata tutta dedicata alla lussuria. Non so se vi è mai capitato di frequentare uno di quei motel americani, ma se non li avete frequentati probabilmente li avrete visti in migliaia di film. Primo fra tutti Psycho. In Psycho di Hitchcock il proprietario del motel è quello, insomma, che causa tutto il casino che racconta il film, per cui il coltello dietro alla tenda della doccia, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quel motel lì, quel tipo di motel lì, una struttura bassa, a un piano, con le stanze una accanto all'altro, e il posto per l'automobile davanti. Non ci siete stati, lasciate stare, sapete benissimo di cosa parliamo perché l'avete visto in 1000 film. Ecco, immaginate di essere in un motel come quello, o immaginate anche di essere in un hotel qualunque, in una pensione qualunque. Ci siete stati magari in queste vacanze che sono appena trascorse, in montagna o in una città d'arte. Siete sdraiati, siete a letto, siete con il vostro marito, vostra moglie, la vostra compagna, la vostra amante, o magari siete anche da soli, ok? Siete sul letto. E immaginate di guardare sopra la vostra testa, di alzare la testa sul soffitto della camera e di vedere una grata. Quella è una grata per l'aria condizionata, per lo più, o per il riscaldamento, dipende dove siamo e dipende a cosa serve in base alla temperatura della zona. Ecco, non si vede, ma dietro a quella grata potrebbe esserci qualcuno che vi osserva. È un pensiero spaventoso da un certo punto di vista, ma sta alla base di una delle storie che vi raccontiamo oggi. In una puntata dedicata alla lussuria, la seconda storia di oggi arriva dagli Stati Uniti, arriva da uno di quei motel di cui vi ho parlato e arriva proprio dal proprietario di quell'hotel, che a un certo punto, dopo anni e anni di osservazione da una di quelle grate, decide nemmeno di autodenunciarsi, ma di raccontarlo a uno scrittore americano per dirgli: so che lei sta facendo una sorta di racconto del sesso negli Stati Uniti. Secondo me, quello che io ho visto e quello che io ho appuntato in questi anni di osservazioni della grata del soffitto del mio motel può interessarla. È una storia che ha dato vita ad un libro, ha dato vita anche a un documentario, sulla cui veridicità c'è stato qualche dubbio, ma più o meno la storia è andata così e ve la racconteremo più tardi. L'altra storia che vi raccontiamo oggi in questa puntata dedicata alla lussuria parla invece, e purtroppo l'autore della storia non è con noi, quindi non può raccontarci di più, ma basta quello che ci racconta. Racconta di quello che può succedere quando tra due persone si fa fatica ad avere un rapporto sessuale. Per mille motivi, in questo caso per un motivo, uno stupidissimo motivo di salute sopravvalutato. Ecco, da quel problema lì possono nascere dei mostri o come dice lui, delle tragedie indicibili che sfociano nell'episodio che sto per raccontarvi. È un episodio di vita qualunque. Siamo in montagna, c'è una coppia che è insieme, giovane coppia che è insieme da 3 anni, stanno passeggiando in montagna e a un certo punto succede qualcosa che aprirà una vera e propria voragine. È Linee d'ombra, vi raccontiamo storie dei vizi capitali, lo facciamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Se avete voglia di raccontarci una storia legata a un vizio capitale, uno dei vecchi, uno dei 7 vecchi, uno di quelli nuovi che stiamo scoprendo, se vi avete la sensazione di camminare sul filo, di camminare su una linea che da una parte ha la luce della vita quotidiana, dall'altra parte ha l'ombra di qualcosa che tenete nascosto, quella potrebbe essere una storia da raccontare qui. La prendete, la scrivete, 1 o 2 pagine, e ce la mandate. lineedombra@radio24.it. Noi prendiamo e ci facciamo una puntata proprio come quella di quest'oggi. Benvenuti a Linee d'ombra. Tutto iniziò una ventina di anni fa, quando dopo la laurea trovai un lavoro in un piccolo centro lontano dalla mia regione di origine. Lì conobbi una ragazza che si trovava in quel posto per gli stessi miei motivi, anche lei lontana dalla sua famiglia e dalla sua città di origine. Scoccò subito una scintilla e dopo pochi mesi decidemmo di convivere. Lei era una ragazza carina, tranquilla e, come pregio riconosciuta da tutti, aveva un'innata gentilezza verso chiunque avesse a che fare con lei. Ecco, ora spostiamo la lancetta in avanti di 3 anni. Un fine settimana di luglio decidiamo di andare a fare una visita naturalistica guidata in una vallata alpina poco distante. Una vallata che conoscevamo peraltro bene, in quanto spesso andavamo a passeggiare e a prendere il sole in riva a un torrente alpino. Una delle guide era una sorta di ricercatore, la cui avvenenza mi fu spiritosamente fatto notare proprio da lei, con esclamazioni tipiche del suo dialetto. Noi eravamo soliti scherzare insieme utilizzando proprio i nostri differenti dialetti di origine. Lui, la guida, era effettivamente un bel ragazzo, con un fisico robusto, gli occhi chiari, baffetti e capelli ricci, sul biondino. L'escursione guidata occupava solo l'arco della mattina e nel pomeriggio andammo a prendere il sole in costume in riva a quel torrente di montagna che ci piaceva molto. C'è da sapere che quel torrente era frequentato da diversi escursionisti e immancabilmente c'era qualcuno in topless. Lei improvvisamente e sorprendentemente, considerato che non era affatto sua abitudine, mi fece una proposta. «Scommettiamo», mi disse, «che ho il coraggio di mettermi anche io in topless». Io feci una risata e risposi affermativamente che le avrei dato 10 euro se si fosse messa in topless senza barare. A quel punto si tolse la parte superiore del bikini. Io rimasi sorpreso, ma in fondo desideravo vedere il suo seno nudo alla luce di quel sole bellissimo e in quel contesto naturale meraviglioso. Intravidi, dopo pochi secondi, arrivare proprio quella guida che lei aveva, seppure scherzosamente, tanto apprezzato. Con il senno di poi, io credo che lei si fosse accorta prima di me del suo arrivo e avesse fatto in modo di farsi trovare a seno nudo. Insomma, lei lo saluta, lui risponde e si avvicina. Ci dice che se amiamo prendere il sole in libertà, conosce un altro posto, molto bello e più tranquillo, e ha soli 20 minuti di cammino. Lei era entusiasta e quindi lo seguimmo verso quell'altro luogo. Notavo tra i due una discreta intesa, ma nulla di sfacciato. A un tratto si allontanano per 30 secondi, giusto per dirsi 4 parole. Lei si avvicina a me e mi dice che va a fare una brevissima passeggiata, 10 minuti, lei e lui. Io, perplesso, rispondo, tu e lui, da soli? E io rimango qui? Ma che dici? E lei risponde, dai, fammi andare, fai il bravo. Lo sai, no? Lo sai bene. Ecco, quel lo sai mi annichilì e la lasciai andare. Ritornarono dopo circa 40 minuti, ma occorre, a questo punto, raccontare un importante antefatto. Nel corso dei 3 anni di relazione tra me e lei sopraggiunsero, per dei miei motivi di salute, impedimenti ad avere rapporti sessuali. Si trattava di una banale fimosi, poi risolta dopo la fine della nostra storia. Inizialmente fu però mal diagnosticata da un medico che diede la colpa a una mia presunta ipersensibilità. Affrontammo la cosa con il silenzio. Io, imbarazzatissimo, non sapevo cosa dirle. Lei non mi diceva nulla, ma era evidente la sua tristezza. Mi sentivo inadeguato e in colpa. Lei rimaneva comunque con me. Era dolce ed eravamo uniti in una regione lontana che non era la nostra. Lei quindi quel giorno al torrente, allontanandosi con la guida e dicendo quella frase lo sai bene, più affilata di un pugnale, per la prima volta mi faceva intendere la tragedia sulla quale era appoggiato il nostro rapporto. Quel giorno quindi la lasciai andare con lui. Era chiaro che cosa stessero andando a fare, ma non avevo la forza di oppormi. Sentivo che non ne avevo in qualche modo il diritto. Quando tornarono, tutti noi recitammo a far finta di nulla. Ma quel lo sai bene, aveva aperto una strada. Lei andò un paio di fine settimana da sola in montagna, ospitata da lui. Dopo lui fu invitato a casa nostra. Ma il tutto fu da lei organizzato magistralmente. Lei lo invitò in una serata nella quale io ero stato invitato ad una cena di lavoro tra colleghi. Al ritorno dovevo dormire sul divano della cucina. Lei mi disse: mica facciamo dormire un ospite sul divano, no? A me risuonava in testa sempre quella frase, lo sai bene. Lui la mattina andò via presto. Quelle poche volte in cui io interagii con lui, fu sempre estremamente gentile con me. Io mi sentivo afflitto, umiliato e sconfortato, ma paradossalmente le ero grato per stare comunque con me, con dolcezza, nella mia vita quotidiana. Alla fine furono poi le circostanze a risolvere tutto. Lei ottenne finalmente un contratto a tempo indeterminato vicino al suo paese di origine. Non poteva rifiutare. Andò via e dopo qualche mese mi lasciò. Do your best impression for me. I try my hardest for you. Are you in love? Are you in love? Are we as one? Everything desperate lives behind. Don't take away this wonderful sense of mine. I reserve the right to disappear. I reserve a table for old time. Back then, it wouldn't have even crossed my mind. But I promise you, your place is safe. Now what about mine? Do your best impression for me. La puntata di oggi, come avete capito, come avete sentito la storia, è dedicata alla lussuria, anche se in realtà la storia che ci ha raccontato Giovanni parla di un piccolo problema che genera un mostro, lo dice lui stesso. Solo in un certo, a un certo punto ho capito la tragedia sulla quale era fondata la nostra relazione. Purtroppo Giovanni, come a volte succede, d'altra parte quando raccontiamo storie molto delicate come questa, ha preferito non intervenire. Ce ne dispiacciamo ovviamente, però sono molto contento perché ne approfitto per avere al telefono una persona a cui sono umanamente molto affezionato, ma che è soprattutto uno dei, e lo dico, so che adesso lui di là dall'altra parte del telefono si contorcerà, ma è uno dei più grandi fumettisti e disegnatori che abbiamo in Italia, probabilmente in Europa, e che ha raccontato, lo citiamo e ce l'abbiamo ospite per un motivo molto preciso, perché molti anni fa, nel 2008, ha scritto un libro, scritto e disegnato un libro straordinario che si chiama La mia vita disegnata male, che partiva, insomma, più o meno la storia, la trama partiva da una episodio simile, dall'incapacità del protagonista ad avere rapporti sessuali con la fidanzata di cui era molto innamorato, per un dolore, per un piccolo problema che poi si risolveva, ma che creava appunto dei mostri. Sto parlando di Gianni Pacinotti in arte Gippi. Pronto, ciao Gianni, buongiorno. Ciao a te. Ho fatto un preambolo lunghissimo. Un preambolo perfetto, mi stavo giusto contorcendo sulla sedia. Lo potevo immaginare. Senti, partiamo giusto dalla mia vita disegnata male, che adesso riguardavo le date del 2008. Infatti, come passa il tempo quando ci si diverte? Guarda, mi sono segnato sul foglio che ho davanti qui al tavolo di disegno 12 anni fa, non me l'ho reso conto. E quel libro lì, che era un romanzo che raccontava, come sempre fai tu Gianni, racconta ovviamente in parte una storia propria, in parte no, partiva da un episodio che era legato alla difficoltà, no, di avere rapporti sessuali del protagonista con la fidanzata. Quella roba lì veramente genera dei mostri nella vita delle persone. Sì, quella roba lì è una roba che mi è successa e che spero non mi succeda mai più, ed è stato spaventoso, perché non credevo, tra l'altro, che tutta la mia persona fosse edificata intorno al mio pisello, nel senso che quando il pisello aveva quei problemi lì, io come uomo svanivo, cioè ero proprio completamente sbriciolato. E fa strano, perché uno pensa che invece ha anche un cervello, no? Delle idee, e invece andava tutto in pezzi. La cosa che poi è buffa è quanto noi maschi siamo stupidi, nel senso che io ho aspettato tanto prima di farmi visitare, no? Ci sono queste cose che uno si vergogna, come se uno si dovesse vergognare per uno strappo muscolare alla schiena, cioè è soltanto carne, capito? Certo. E la cosa ancora più strana, dopo che è uscito il libro dove io raccontavo di quella cosa, è la quantità di maschi che mi hanno scritto per chiedere consiglio. Perché un consiglio medico? Sì, ero diventato una specie di andrologo online. Che questo, cioè, essendo io un fumettista, ti dà proprio l'idea della terribile condizione dei maschi italiani. Totalmente, sì. Assolutamente. Ma infatti, io ho fatto un giro su internet quando appunto ci è arrivata questa storia che ti abbiamo mandato, anzi, grazie per averla letta. Ci teniamo sempre che la persona che invitiamo sappia di cosa stiamo parlando, e quindi so che hai capito il dramma di quest'uomo. Sì. Facendo una ricerca su internet è veramente un disastro, cioè veramente, sì. Basterebbe, è come quando in classe il professore dice c'è qualcuno che non ha capito e nessuno alza la mano, basterebbe dire guarda, io non ho capito, ti dico la verità, non ho capito niente di me, di come sono fatto, datemi una mano. Davvero, se non l'avete fatto, leggetevi La mia vita disegnata male di Gippi, che appunto ha 12 anni di vita, ma è sempre ovviamente disponibile. Gianni Gippi Pacinotti è stato il primo uomo che nel 2013 ha ottenuto la candidatura al premio Strega con un romanzo a fumetti. Ricordo, Gianni, che tu dicesti: la prendo a ridere questa cosa. Sì, no, l'avevo presa a ridere, era stata un po' una provocazione, cioè il mio editore mi aveva telefonato un giorno e mi aveva detto: vai che proviamo a fare sta cosa. Io ho detto: che succede? Ma lui mi ha detto: ma casino, credo. Ah beh, allora c'è casino, sì, però era proprio una roba senza speranza, solo per fare confusione. E poi abbastanza miracolosamente sono finito nei primi 12 e quindi mi sono ritrovato alla cerimonia quella vera, dove sono poi viene fuori la cinquina. Sì, no, è un mondo a me completamente ignoto, dove chiaramente mi trattavano come una specie di buffa mascotte, perché comunque facevo fumetti. Però è stato divertente. Quest'anno pensavo di vincerlo. Questo potrebbe essere un'idea. A questo proposito, se non l'avete fatto, visto che ne parlavamo poco fa, prima della diretta con Gianni, visto che lui ci tiene a raccontare sempre cose molto molto intime, ha raccontato un momento, insomma, molto complicato della vita, che è legato alla perdita di una persona molto cara come la propria madre, in un libro che si chiama Momenti straordinari con applausi finti. Il titolo è meraviglioso e il libro è altrettanto. Se invece siete curiosi di sentirlo chiacchierare, lo vedete anche a Propaganda Live con i suoi corti e con la sua stessa faccia. Gianni, ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata. Grazie a te, in bocca al lupo per te. Tutto. A presto. Anche a te. Ciao, ciao Gianni. Ciao, ciao, ciao. Borsa in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta DarioRomanoEstensibile.it. Dal 1981 nel settore dell'imballaggio. Bobine di film estensibile di qualsiasi peso, spessore e colore. Qualità, servizio, prezzo. DarioRomanoEstensibile.it. Propositi per l'anno nuovo. Dieta. Sì, da lunedì. Palestra. Al massimo soft yoga. Prendermi del tempo per me. Sarà il solito tempo di un caffè. Almeno sul caffè non scendere a compromessi. Inizia l'anno con la qualità superiore di Nespresso. Con i Nespresso White Days puoi avere macchine e caffè a un prezzo straordinario fino al 19 gennaio. Andare nelle boutique Nespresso o su Nespresso.com. Nespresso. What else? Figliolo. Ma padre! È iniziato l'anno nuovo? Hai pensato al prossimo tuo? Sì, sì, per ben due volte. In poltrone sofà, doppi saldi, doppi risparmi. Sconto 50% più fino all'ulteriore 40 su tutta la collezione. E puoi pagare in 48 mesi senza interessi. E fino a domenica 12 gennaio, 2500 divani in pronta consegna a soli 99 euro. Poltrone sofà, autentica qualità. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E come vi dicevo in apertura di puntata, in questa puntata di Linea d'Ombra dedicata al vizio della lussuria, vi raccontiamo ora la storia di un motel americano e delle persone che lo frequentano, ma soprattutto della persona che è il proprietario del motel. La storia che stiamo per raccontarvi è uscita su New Yorker qualche anno fa ed è diventato anche un libro, anche qui in Italia, un paio di anni fa, anche se lo stesso autore dapprima ha dichiarato che la storia era totalmente vera e poi un po' ha ritrattato. L'autore è lo scrittore americano Gay Talese e si intitola Il motel dei Voyeur. State con noi. Conosco un uomo sposato e padre di due figli che tanti anni fa comprò un motel con 21 stanze nei pressi di Denver in Colorado per diventare il guardone in pianta stabile. Con l'aiuto della moglie ricavò delle aperture rettangolari di 15 per 35 centimetri nel soffitto di una dozzina di quelle stanze. Coprì poi i buchi con dei pannelli di alluminio a persiana che parevano delle griglie di ventilazione. In realtà però erano griglie d'osservazione e gli consentivano, inginocchiandosi nella soffitta, di spiare i clienti delle camere sottostanti. Li osservò per decenni, documentando minuziosamente per iscritto quello che vedeva e che sentiva. Non una sola volta in tutti quegli anni si fece scoprire. Io venni a sapere dell'esistenza di quest'uomo ricevendo via espresso al mio indirizzo di casa newyorkese una lettera scritta a mano e priva di firma, datata 7 gennaio 1980. Esordiva così: «Gentile signor Talese, è da quando ho saputo dell'atteso studio sul sesso da una costa all'altra degli Stati Uniti presente nel suo libro, di prossima pubblicazione dal titolo La donna d'altri, che ritengo di avere importanti informazioni con cui potrei contribuire al suo contenuto o al contenuto di un libro futuro. Il motivo per cui ho acquistato questo motel è stato quello di soddisfare le mie tendenze voyeuristiche e il mio fervido interesse per il modo in cui le persone conducono la vita in tutti i suoi aspetti, sul piano sociale come su quello sessuale. L'ho fatto esclusivamente in ragione della mia sconfinata curiosità per le persone e non da semplice guardone depravato. Ho preso meticolosamente appunti sulla maggior parte degli individui osservati. Ho compilato interessanti statistiche relative a ciascuno, per esempio su ciò che faceva o diceva, sulle caratteristiche individuali, l'età, la corporatura, la zona di provenienza e infine il comportamento sessuale. Ho visto mettere in atto la maggior parte delle emozioni umane in tutta la loro ironia e tragicità. Al momento non posso rivelarle la mia identità per proteggere i miei affari, ma lo farò quando potrà garantirmi che tale informazione sarà mantenuta sotto il più stretto riservo. Poiché io all'epoca avevo in programma di recarmi a Phoenix verso la fine del mese, decisi di spedirgli un biglietto con il mio numero di telefono, proponendogli di incontrarci durante una tappa a Denver. Di lì a qualche giorno mi lasciò un messaggio sulla segreteria telefonica, dicendomi che mi sarebbe venuto a prendere al ritiro bagagli all'aeroporto. Due settimane dopo, avvicinandomi al nastro scorrevole in aeroporto, vidi un uomo che mi tendeva la mano, sorridendo. «Benvenuto a Denver», disse, agitando nella mano sinistra il biglietto che gli avevo spedito. «Mi chiamo Gerald Foss». Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just a lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be just a lonely baby. I'll be just a lonely, I'll be so lonely, I could die. Tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think you're so, and think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Gli chiesi come avesse messo in atto il suo progetto e Foss mi spiegò che gli erano occorsi mesi per portare le griglie di osservazione del suo motel a un livello di infallibile perfezione. Aveva appunto montato delle finte griglie di ventilazione e chiesto a un fabbricante di lamiere di costruire gli svariati pannelli a persiana di 15 cm per 35. Soltanto sua moglie, che era al corrente del progetto, aveva potuto aiutare Foss a montarli. Stanza dopo stanza, era salita su una sedia e allungando le braccia aveva inserito un pannello dentro l'apertura praticata da Foss nel soffitto con una sega elettrica. Lui, steso sulla pancia in soffitta, aveva fissato il pannello al pavimento di compensato e alle travi con delle lunghe viti a testa piatta. Aveva posato tre strati di spessa moquette in una striscia di pavimento al centro della soffitta. I chiodi che tenevano ferma la moquette erano rivestiti di gomma per attutire il cigolio dei passi. Foss disse di avere cominciato a spiare i clienti nell'inverno del 1966. Spesso ciò che vedeva lo eccitava e lo gratificava, ma in molti casi l'attività era così noiosa che si appisolava, dormendo sulla moquette anche per ore. La prima sera Foss volle mostrarmi il suo sottotetto segreto e per farlo bisognava passare dal locale di servizio. Fissata a una parete c'era una scala in legno dipinta di blu. Feci sì con la testa a Foss, che mi aveva invitato al silenzio posandosi un dito sulle labbra. Quindi lo seguì su per la scala. Raggiunto un pianerottolo, lui aprì una porta che conduceva in soffitta. Quando ebbe richiusa chiave dall'interno, vidi, nella penombra, alla mia sinistra e alla mia destra, le travi di legno inclinate su cui si reggeva il tetto spiovente del motel. In mezzo allo stretto pavimento c'era una passerella di moquette larga circa un metro che correva sopra i soffitti delle 21 stanze destinate ai clienti. Mi accovacciai sulla passerella alle spalle di Foss per evitare di sbattere la testa contro una trave e lo vidi indicare in basso, verso una feritoia nel pavimento. Qualche passo più in là si intravedeva una luce. Vidi ciò che faceva Foss e lo imitai. Inginocchiatomi, avanzai carponi verso i listelli illuminati. Poi allungai il collo per vedere il più possibile attraverso la griglia e così facendo quasi picchiai la testa contro quella di Foss. Infine vidi un uomo e una donna, nudi, stesi sul letto sottostante, intenti a praticare sesso. Benché nella mia testa una voce insistente mi dicesse di guardare altrove, io continuai a osservare, sporgendomi un po' più verso il basso per vedere meglio. Nel farlo però non mi accorsi che la cravatta mi era scivolata attraverso i listelli del pannello e adesso penzolava nella stanza di sotto del motel, a pochi metri dalla testa della donna. Mi accorsi della mia sbadataggine solo quando Foss mi prese per il collo e con la mano libera sfilò la mia cravatta dalla fessura. Il pensiero successivo fu: perché mi preoccupavo di proteggere Gerald Foss? E tra parentesi, che cosa ci facevo io lì? Scesi dietro di lui per la scala e uscimmo nel parcheggio. «Deve togliersi quella cravatta», disse infine riaccompagnandomi alla mia stanza. Annuì e gli augurai la buonanotte. I've got a blue motel with a blue bedspread. I've got the blues inside and outside my head. When I call you up, when I'm down, here in Savannah, it's pouring rain. Palm trees in the porch light like a slick black cellophane. Will you still love me when I call you up? Tell those girls that you've got German measles. Honey, tell them you got germs. I hope you'll be thinking of me because I'll be thinking of you. La storia che vi abbiamo appena raccontato l'ha raccontato lo stesso Guy Telese in un articolo sul New Yorker, del New Yorker, che si chiamava The Wires Motel, che è diventato anche un libro e un documentario. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Nell'ultima storia che vi abbiamo raccontato in questa puntata, quella del Wire Motel, quella raccontata da Guy Telese prima in un articolo uscito su Vanity Fair, poi in un libro, ma anche in un documentario. Se dovesse interessarvi, c'è un documentario che credo sia su Netflix che si intitola proprio Wire Motel, che racconta questa storia, la racconta lui in prima persona, e c'è un'intervista anche a Gerald Foss, che è il protagonista e proprietario del motel. Visto che appunto abbiamo parlato di voyeurismo, noi quando si tratta di lussuria, ma soprattutto si parla di sesso, abbiamo sempre il piacere di sentire quello che ormai è il nostro esperto ufficiale. Lui è docente di clinica delle parafilie e della devianza alla facoltà di medicina e psicologia dell'Aquila ed è presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma, ed è Fabrizio Quatrini. Pronto Fabrizio, buongiorno. Sì, ciao Matteo, buongiorno e buon anno. Buon anno anche a te, sempre un piacere sentirti, e vado subito al dunque. Partiamo dall'inizio, Fabrizio. Che cos'è il voyeurismo? Qual è la definizione corretta di voyeurismo? Che altrimenti è no, il guardone. Il voyeur è il guardone, però scientificamente. Sì, diciamo che per quanto riguarda la parafilia del voyeur, quindi che non ha una disfunzionalità nello specifico, è un comportamento di osservazione e di spia, no? A spiare in qualche modo quello che potrebbe essere la nudità degli altri, a volte anche spiare un atto sessuale che porta inevitabilmente a una grande eccitazione. Mi preme sempre sottolineare, quando parlo di parafilia e di stupro parafilico, dire che se questo poi diventa una forma di dipendenza, una forma comunque di disagio, da quella che è il semplice comportamento sessuale atipico, si passa a un comportamento di disturbo. Ok. Dice, la differenza è comportamento atipico e disturbo, cioè linea d'ombra sta lì, diciamo. Esatto. Okay. Quindi scusami, a questo punto, venendo al dunque, cioè parlando del racconto che abbiamo fatto e quindi di come quest'uomo addirittura prenda un motel per poter osservare i suoi ospiti nelle stanze, lo fa per anni. Per quale motivo, generalizzo, siamo spinti? C'è qualcosa dentro di noi che ci provoca piacere nell'osservare delle persone che so io, sono in un momento di intimità, non per forza fanno sesso, ma sono in un momento di intimità? Certo, sì, anche perché a volte l'intimità potrebbe essere anche della toilette, del bagno, quindi non solo necessariamente un discorso di rapporto sessuale. Ma io credo che la curiosità a volte spinga, no? La curiosità di tantissime persone spinga a fare, no? E a commettere a volte quella trasgressione che è di guardare dal buco della serratura, cioè cercare di carpire, no? I momenti intimi dell'altro diverso da te. La cosa particolare però mi viene in mente rispetto alla storia che avete raccontato è che la persona stava violando una regola importante, che non era solamente quella della privacy, ma che era quella addirittura di avere degli ospiti in un motel e poi andare a spiarli. E quello diventa una lesione alla libertà dell'altro, no? E quindi in quel caso diventa veramente molto molto pericoloso. La spinta personale a volte potrebbe essere data anche da delle situazioni che si sono generate in età evolutiva, e quindi mi viene da pensare soprattutto in pubertà e in adolescenza, dove la persona potrebbe essersi trovata accidentalmente in un contesto di voyeurismo e poi lo ha fatto diventare proprio, facendolo crescere con sé in quella che diventa la forma proprio del piacere e dell'eccitazione. Fabrizio, invece l'altra faccia della medaglia sono le persone che provano piacere nel fare sesso mentre sono guardati. Vabbè, quella è un'altra cosa, perché quello naturalmente in termini tecnici si chiama cuckold, cioè è una persona che in qualche modo preferisce a volte fare della propria intimità un'osservazione dell'atto in sé, ma spesso dove è coinvolta la partner con un altro partner. Oppure ci potrebbe essere un aspetto di auto-osservazione in qualche modo, no? Anche del lato sessuale, mi viene tutte quelle persone che amano vedersi allo specchio e quindi in qualche modo, no? Cercare di attirare la propria attenzione su quello che stanno mettendo in atto. Quello che vorrei però sottolinearvi è una cosa secondo me delicata, perché l'atto del voyeurismo in sé, forse noi ce lo stiamo un po' dimenticando, ma ci appartiene un po' a tutti, perché basta pensare anche alle trasmissioni televisive che ci sono da alcuni anni, come Il Grande Fratello, e quanto questo permetta a tutti di essere probabilmente dei voyeur, o comunque dei guardoni da un grande buco, esatto, della serratura. Ma esatto, anche esatto. Fabrizio, non so se è la stessa cosa, però insomma non vorrei generalizzare eccessivamente, ma quando c'è un incidente sull'autostrada e si crea una coda dalla parte opposta perché le persone hanno la curiosità di guardare, e credo che abbia a che fare più che altro con la voglia di spingersi a guardare dove non si può guardare, dove in teoria è sbagliato o qualcuno ci ha detto non si può, lì non si osserva. Allora, questo è vero, Matteo, cioè il fatto di qualcosa che ti dicono che non devi fare può, come dire, attivare l'opposto, però credo che sia proprio anche innato nelle persone osservare, guardare, è un canale molto importante quello visivo, per rendersi conto di quello che non solo può piacere ma che potrebbe anche far male, riferendomi a quello che hai appena citato. È quasi come per difesa: se io osservo mi tranquillizzo, che poi è un po' quella stessa cosa che succede se io guardo l'altro che fa sesso o comunque l'altro che è in intimità, un po' mi incuriosisce, un po' mi agita, ma un po' mi tranquillizza, perché mi garantisce un qualcosa che potrei fare anche io e potrei effettivamente vivere all'interno dell'esperienza del piacere. Fabrizio, è davvero sempre un grande piacere e ti ringrazio. Salutiamo Fabrizio Quattrini, alla prossima quando parleremo di lussuria o di sesso. A presto, grazie Fabrizio. Grazie a voi, ciao. Racconta di lussuria, lo avete capito, ma la nostra storia seriale prende uno dei vizi e lo porta avanti per settimane, in questo caso anche probabilmente per un mese. È la storia di Giorgio, che è stato figlio di una persona che è stata uccisa dalle Brigate Rosse durante il periodo in cui appunto in Italia imperversava questo gruppo terroristico, e ha deciso di raccontarci come ha vissuto lui l'ira, come ha vissuto la rabbia, come gli è nata dopo la morte del padre, come l'ha addirittura coltivata e poi come è riuscito a combatterla. Siamo con lui, abbiamo appena iniziato a raccontare la sua storia, Mauro Pescio l'ha raccolta e ce la racconta, la voce che sentite è quella di Giorgio e andiamo con lui per capire come nasce tutta la storia sua e della sua famiglia. Parlando di paura, mi è venuto in mente un aneddoto molto importante che fa capire come si viveva nelle famiglie quello che stava succedendo. Mia mamma mi aveva avuto da pochissimo, veramente da poco. Ed è capitato che papà è stato via tipo 3-4 giorni di fila senza tornare a casa e senza neanche fare una telefonata. Non c'erano i cellulari ai tempi. E anche, cioè, papà faceva parte dei servizi di sicurezza, una squadra speciale, anche se è vero le mogli chiamavi in questura, cioè non potevi. Mia mamma, con me piccolo, un giorno si presenta in questura. Dopo 4 giorni che non vede papà, perché dice che cazzo è successo, cioè. E mi ricordo che quelli che la guardavano hanno capito subito, perché poi a tutti genti, no, venga venga signora, però l'hanno portata su, mi ha detto mamma che ha aperto questa porta buia con tutte le tappare elettriche, fumo pazzesco, perché tu dentro che fumava, che erano tutti lì che scrivevano verbali, che facevano cose, ha detto che ha alzato gli occhi, mio papà l'ha vista fa Luciana. Cioè lui era talmente assorto nel suo lavoro che si era dimenticato che erano 4 giorni che non arrivava, che non si faceva sentire a casa. E vi racconto questo per spiegare meglio la tensione in cui vivevano le famiglie come la nostra in quell'epoca in Italia. Ma la paura per molti di loro correva di pari passo con l'impegno, la dedizione e l'abnegazione che mettevano nel lavoro che facevano. E poi c'è il ricordo di quel giorno, il giorno in cui tutto è cambiato. Non puoi, cioè non credo che tu abbia memoria di quel giorno. Di qualcosa sì, di pochi sprazzi, di poche immagini sì, che mi ha confermato anche mia mamma. Mi ricordo che eravamo in casa. E in casa avevamo questi grossi divani rossi, gonfi, anni 70, quelli di una volta, quelli proprio pieni, grossi, che avevamo in sala, rosso-arancione erano. E mi ricordo, io su questo divano, e questo via vai di divise, di autorità, con la TV che era nell'angolo, guardando la sala, nell'angolo a sinistra della sala, mi sembra che ce l'avessimo ancora in bianco e nero. Sì, mi sa che era sicuramente in bianco e nero quel giorno. E questo ricordo qua delle divise di questa roba ed io che poi forse però me lo so, questo me l'ha raccontato mamma, ma di io che con le mie pistole giocattoli sparo a queste divise, ma io quel giorno lì ho proprio quel ricordo che ho sono le divise, le facce non me le ricordo, io mi ricordo un sacco di divise, quello sì, come altri ricordi che ho, cioè ricordo di papà, ero io sulle sue spalle allo zoo e era una sculacciata che mi ha dato, che è il ricordo che quello proprio per filo e per segno ho raccontato a mia mamma e lei si è stupita perché era la prima e unica sculacciata che mi ha dato e poi un'altra che dice mia mamma che mi sono ricostruito, effettivamente è vero che ero io che giocavo con i suoi piedi, ma poi mi ha fatto vedere una foto che ero effettivamente ricordo che avevo io era proprio quella foto lì. Certo. Però tra i ricordi, pensandoci bene, quel fatto lì delle divise, quelle sensazioni, io ce l'ho, quello c'è. La chiudiamo così anche questa puntata di Linee d'Ombra. Vi ricordo che potete riascoltarci come e quando volete sul nostro sito radio24.it, nella pagina dei podcast, nella pagina di Linee d'Ombra, oppure scaricandovi la nostra app. Se invece avete voglia di mandarci una vostra storia, fatelo come e quando volete. Linee d'Ombra@radio24.it. Una storia di vita, una storia vostra che abbia a che fare con i nuovi e coi vecchi vizi capitali. Noi torniamo domani per raccontare storie, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!